Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 69, una puntata ricca di buon blues che attinge alla tradizione, ma anche blues contemporaneo che ci riporta alle atmosfere del nostro tempo. Nomi importanti, nomi conosciuti a livello internazionale, ma anche qualche nome che specialmente da noi ancora deve farsi valere e che attraverso questo programma io cerco di far conoscere, di diffondere e quindi di allargare questo orizzonte blues internazionale molto interessante. Cominciamo subito con Jan Siegel and the Mississippi Mud Blues, che hanno realizzato un CD intitolato Candy Store Kid nel 2012 e dal quale io ho selezionato per voi I Am the Train, Jan Siegel and the Mississippi Mud Blues. Buon ascolto. Rivers to the mountains, coast to shining coast. There's a silver line of mercury that's howling like a ghost. You can hear me in the grasslands, feel me in the trees, moving through the valleys like a wayward summer breeze. You can sense me in the atmosphere, cross the dusty plain. I'm not the station, stop, I am the train. We're the priests and politicians, secular and saved. We're in it for the long haul, from the cradle to the grave. They'll ask you where you're going, you tell them where they've been. They're all pugilists and pirates way down underneath the skin. It don't make a world of difference, sacred or profane. I ain't the ticket, I'm not the passengers. I am the train, I am the train. There's a little yellow idol, green and red ones too, up the roadside from here to Kalamazoo, while 100 million effigies are burning across the land, like so many heartfelt messages delivered by my hand. I see triumphs, I see tragedies through the sun and rain. I'm not the sightings, I ain't the blinds, I am the train. Hear me whistle, hear me whine. Questa era la musica di Jan Siegel and the Mississippi Mud Blues dal CD Candy Store Kid pubblicato nel 2012. Il pezzo era intitolato I Am the Train. Un pezzo che, come dire, sembra quasi la sintesi della, di quello che ho detto prima all'inizio, cioè una trasmissione che avrà un approccio alla grande tradizione, ma nello stesso tempo avrà anche dei momenti di modernità. E questo pezzo sembra proprio simboleggiare questo equilibrio, c'è questo rispetto per la grande tradizione, ma si sente anche che è un blues vissuto oggi, vissuto con le istanze del blues contemporaneo. Molto equilibrato, ricco di una bella energia per partire veramente al meglio. Una bella voce quella del leader del gruppo, Jan Siegel. Jan Siegel and the Mississippi Mud Blues. E adesso andiamo a un musicista che nel 2008 ha realizzato questo CD intitolato Bluesman, veramente molto intenso. Si tratta di Joey Gilmore. Joey Gilmore è veramente un ottimo artista, un bluesman doc che stasera ci proporrà Things I Used to Do. Buon ascolto con Joey Gilmore. The things that I used to do. Lord, I won't do no more. The things that I used to do. Lord, I won't do no more. I used to sit and hold your hand. Lord, and my search would always end in vain. I would search all night for you, baby. Lord, and my search would always end in vain. But I knew all along, darling, that you were hit out with your other man. your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. I'm gonna send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. Questo era il grande Joy Gilmore. Joy Gilmore, uno dei più grandi bluesmen ancora in attività, quasi ottantenne, in pienissima attività, con grande entusiasmo, grande voglia di fare, ancora una grinta da vendere, con questa sua voce veramente forte, intensa, piena di energia, di forza espressiva. Ce lo siamo ascoltati attraverso una registrazione del 2008, il CD in questione si intitola Bluesman e il titolo del pezzo è Things I Used to Do, Joy Gilmore, veramente un musicista che ci ricorda la grande tradizione del blues elettrico più importante, è arrivato fino a noi integro durante i suoi passaggi. Mi veniva in mente atmosfere anche vocali che mi riportavano alla memoria B.B. King, eccetera. Veramente Joy Gilmore è tra i più grandi, più forti ed espressivi vocalist blues della grande tradizione. Adesso andiamo avanti con un CD intitolato Tijuana Bible, pubblicato da Jim Soler e Monkey Beat, un musicista che abbiamo già avuto ospite nel mio programma in anni passati e che ritorna con questo CD Tijuana Bible, dal quale noi ci ascolteremo Black Sky. Jim Soler and Monkey Beat, buon ascolto. Oh, La grande energia, la grande forza espressiva, la grande dinamica di Jim Soler e Monkey Beat, questo artista che abbiamo già avuto il piacere di promuovere in Blues Fires attraverso sue varie pubblicazioni discografiche, una è più interessante dell'altra, un artista che dopo la grande tradizione dell'autore precedente di Joey Gilmore ci ha riportato nel blues rock contemporaneo. Jim Soler e Monkey Beat sempre all'altezza della situazione, anche in questo caso con questo CD pubblicato nel 2007 intitolato Tijuana Bible, dal quale ci siamo ascoltati Black Sky. E dopo Jim Soler e Monkey Beat è il momento di una grande vocalist. Si tratta di Geneva Menyes. Geneva Menyes nel 2008 ha realizzato un CD intitolato What Love Will Do, e stasera noi ci potremo ascoltare One Heartache Too Late. Buon ascolto. Could have had a good thing, could have had it all, but the line of love, babe, you kept stepping across. Through the pain and the hurt, babe, I hung in there with you, and the day you walked out on me, boy, that was a final abuse. Now you're knocking on my door, you say you want back in, you say you're gonna try it again, but you're heartache too late. Well, I'm trying to tell you now, now you're back and begging, saying that you changed. There's too much muddy water gone down the drain. You took advantage of me, boy, one time too many. I gave all I had to give, then you pushed me to the limit. Oh, I've hurt my last hurt. Yeah, I cried my last tear. Ain't no use in you trying to get back up in here, 'cause you're one heartache too late. Ci siamo ascoltati Geneva Menyes, una vocalist veramente di prim'ordine, una cantante veramente molto brava da annoverare tra le più interessanti del panorama blues internazionale. Veramente grande grinta, grande forza, delle capacità tecniche che gli permettono forti estensioni, ma nello stesso tempo non è mai soltanto un'esibizione tecnica, anche capacità espressive veramente significative. Geneva Menyes l'abbiamo potuta ascoltare attraverso un pezzo intitolato One Arctic Too Late, pubblicato all'interno del CD What Love Will Do, che è uscito nel 2008. Geneva Menyes. E adesso andiamo avanti con un italiano che vive all'estero, anche se ogni tanto viene a fare una scappatina in Italia, e abbiamo l'opportunità di ascoltarlo anche qui. Io l'ho avuta qualche anno fa al Musica Strada. Si tratta di Enrico Crivellaro. Enrico Crivellaro, ottimo chitarrista ma anche vocalist, che stasera potremo ascoltare in un bel pezzo intitolato You're in for a Big Surprise, tratto dal suo CD Key in My Kingdom. Buon ascolto quindi con il grande Enrico Crivellaro. I call you mister, I'll shine your shoes. You go away laughing while I sing the blues. You think I'm funny and maybe you so wise, but you in for a big surprise. You got a mansion and a limousine. Please don't think I'm dirty, I ain't you so clean. You think I'm funny and you think you so wise, but you in for a big surprise. Just like yours, I can feel the pain. My pride is just like yours, I can feel the shame. Right now I'm feeling both, and that's all I can do. I just feel so sorry for you. My heart is in trouble. This every burden makes my poor heart sad. You think I'm funny and you think you're so wise, but you're in for a big surprise. Just feel so sorry for you. is in trouble. No, I'm not mad. This heavy burden makes my poor heart sad. You think I'm funny, and mister, you think you're so wise, but you ain't never brought me surprise. Bene, questo era Enrico Crivellaro. Enrico Crivellaro, ce lo siamo ascoltati in You Are In For A Big Surprise, tratto dal CD Key In My Kingdom. Il linguaggio di Enrico Crivellaro ha questa caratteristica di blues asciutto, con una certa tonalità particolare della sua chitarra che ci riporta ad atmosfere, come dire, legate a un certo passato prossimo del blues elettrico. Un artista che mantiene vivo questo amore, questa passione per questo certo tipo di tradizione, e che lo vive con grande professionalità, con grande spinta emotiva, e riesce a produrre dei progetti discografici molto interessanti, ed è anche sempre gradevole viverlo live durante i suoi concerti, proprio perché esprime sempre questa grande energia e questa grande passione. Dopo Enrico Crivellaro è il momento di ascoltarci Jay McShann, un artista che è scomparso nel 2006, molto interessante, ce lo potremo ascoltare in un progetto discografico intitolato The Last of the Blue Devils, e il pezzo è Tight Nobody's Business If I Do. Buon ascolto quindi con Jay McShann. I'm gonna go right down ocean. Well, it ain't nobody's business. Yes, yes, if I do. Siamo ascoltati Jay McShan, questo artista che, come ho detto prima, è scomparso nel 2006, che è andato un po' nel dimenticatoio, e quindi è stato con piacere che ho riesumato un suo progetto discografico per proporvelo, per farvi ascoltare la musica che faceva e per non dimenticare il suo lavoro, la sua arte. Un bel pezzo, un bel blues, sicuramente morbido e nello stesso tempo capace di di forza espressiva notevolissima. Il pezzo era Taint Nobody's Business If I Do, tratto dal CD The Last of the Blue Devils, J. McShane. E adesso un altro artista, oggi ne ho due o tre di artisti, che alcuni scomparsi da pochissimo, altri da un po' di tempo, che mi piace ricordare. Adesso è il momento di un artista che è stato molto omaggiato per la sua attività subito dopo la morte, che è avvenuta pochi anni fa, nel 2013. Si tratta di J.J. Cale. J.J. Cale, che stasera noi potremo ascoltare da una raccolta, The Very Best Of. Il pezzo che vi propongo è Sensitive Kind. J.J. Cale era un cantautore, un bluesman, ma anche con aspetti folk. Quindi ascoltiamoci questa Sensitive Kind, tratta dal CD The Very Best Of J.J. Cale. Buon ascolto. Thank you. Bene, questo era il linguaggio tipico, caratteristico di J.J. Cale, che, come ho detto prima, è scomparso nel 2013, omaggiatissimo da grandi artisti, riconosciuto come uno dei più validi cantautori, folkman, bluesman americani, di una certa poesia, di una certa sensibilità, e che oggi ci siamo ascoltati in questa Sensitive Kind, tratta dal CD The Very Best Of, appunto dedicato al meglio di questo cantautore, che si chiama appunto J.J. Cale. Andiamo avanti con un altro artista che ha avuto un certo rilievo a livello internazionale e che risponde al nome di Hound Dog Taylor, e per la Alligator Records è uscito questo CD intitolato Genuine House Rocking Music, dal quale ho selezionato per voi questo pezzo intitolato My Baby's Coming Home. Buon ascolto con Hound Dog Taylor. She be home tomorrow night. She called me this morning, told me Hound Dog, everything's alright. Yeah, she called me this morning. Well, she called me on the phone. Yeah, she called me this morning, babe. Well, she called me on the phone. Baby, don't you worry, ain't nothing going on wrong. Man, I felt so good, almost broke down to cry. Felt so good, boy, almost broke down to cry. My baby's coming home, this time and it ain't no lie. Una particolare presenza quella di Hound Dog Taylor con questo suo pezzo intitolato My Baby's Coming Home, tratto dal CD Genuine House Rocking Music. Il suo stile grintoso, forte, ci porta a ricordare queste personalità che avevano un approccio deciso, sanguigno, sensuale con il blues. Il CD in questione, appunto Genuine House Rocking Music, è stato pubblicato dalla Alligator Records e noi ci siamo ascoltati My Baby's Coming Home. E dopo Hound Dog Taylor ritorniamo nel presente, anche se con un grande artista che ha i piedi nel passato ma saldamente ancora in sella nel presente. Si tratta di James Cotton. James Cotton, un grande artista, un grande bluesman che nel 2013 ha realizzato un CD che ho apprezzato molto, intitolato Cotton Mouth Man. E da questo CD ho selezionato per voi Mississippi Mud. Buon ascolto quindi con il grande James Cotton. I remember breaking ground when the earth was bone dry, digging and sweating underneath that blazing Delta sky. You put your seeds in the ground and pray for rain, all for the chance, do it all again. It's in my soul and in my blood, that old Mississippi mud. I found out early, you got to stay behind the mule. I learned things in the field I didn't never learn in school. Whole lot I can't understand. You apply so hard, let the cords get in your head. It's in my soul, in my blood. Oh yeah, that old Mississippi mud. Yes. Beh, è un blues magistrale, veramente straordinario questo James Cotton che ci ha offerto da Cotton Mouth Man, pubblicato nel 2012 questa bellissima Mississippi Mud, una composizione che James Cotton interpreta con naturalezza e con incisività, veramente un bel blues. James Cotton dal CD Cottonmouth Man, il pezzo era Mississippi Mud. E adesso l'ultimo pezzo della serata, a proporcelo sarà John Nemeth, grande artista che dal CD Magic Touch ci farà ascoltare Blues Hit Big Town. Buon ascolto quindi con John Nemeth. Big town, I'm going back to Tennessee. Blues hit big town, I'm going back to Tennessee. Are you women in Chicago? Don't make a fool out of me. This big old west young man, Tennessee, here I come. I'm going back to the Bigfoot country, child, where I come from. Questo era John Nemeth che ha chiuso la nostra serata, la puntata numero 69 di Blues Fires, con questo Blues It Big Town tratta dal CD Magic Touch. E con questo ci diamo l'appuntamento a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.